Va bene, vi chiederò tutti di aprire le vostre Bibbie in Fatti capitolo 10 questa sera. Fatti capitolo 10. E vi consiglio di mettere un segnalibro o tenete questa parte della vostra Bibbia aperta, perché saremo qua in questo capitolo tutta la sera. Fatti capitolo 10. E questa sera vorrei vedere insieme a voi nelle scritture, vorrei vedere un uomo chiamato Cornelio e vorrei fare uno studio su questo uomo e le sue caratteristiche. Ok, vedremo alcune cose che sappiamo già e per molti questo è un ripasso, però ci sono alcune cose che forse non sappiamo ancora, che possono esserci di aiuto. Fatti capitolo 10 e versetto 1. La Bibbia dice: ora era in Cesarea un certo uomo chiamato per nome Cornelio, centurione della schiera detta italica. Versetto 2: esso, essendo uomo pio e temente Dio con tutta la sua casa, e facendo molte elemosine al popolo e pregando il Dio del continuo. Va bene, prima di iniziare il nostro studio chiediamo al Signore di benedire il messaggio. Preghiamo. Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare questa sera, Signore, per la prima cosa, per la causa della nostra riunione, e quella causa è il Signor Gesù Cristo, ed è Lui la causa della nostra salvezza. E ti ringrazio per quel sacrificio sulla croce, che è morto per i nostri peccati, è stato sepolto ed è risorto dopo tre giorni, è risorto adesso alla destra del Padre per intercedere per noi. Ti ringraziamo che offri il dono della vita eterna come un dono gratuito, e chiunque lo può avere, Signore. E preghiamo, Signore, anche per lo studio di questa sera. Signore, guidaci. Signore, apri le nostre menti alle scritture. Dacci quell'attenzione, Signore, che ci serve, Signore, per seguire le Tue parole, Signore, questo messaggio. Prego di aiutarmi, Signore, di riempirmi, Signore, dello Spirito Santo, affinché, Signore, le Tue pecore siano pasciate, Signore. Prego, Signore, tutto questo nel nome del Signor Gesù Cristo. Amen. Va bene, Fatti capitolo 10. Di nuovo la Bibbia dice in versetto 1: ora era in Cesarea un certo uomo chiamato per nome Cornelio, centurione della schiera detta italica. Esso, essendo uomo pio e temente il Dio con tutta la sua casa, e facendo molte elemosine al popolo e pregando il Dio del continuo. Ora qua vediamo in versetto 2 che ci sono quattro buonissime caratteristiche che descrivono questo uomo, ok? E da queste caratteristiche vediamo che Cornelio era un uomo religioso, ok? Cornelio era una delle tante persone religiose, ma non era salvato, ok? E voi direte: salvato da cosa? Salvato dal lago del fuoco, ok? Non era salvato dall'inferno, almeno in questo punto dove stiamo leggendo. E quindi forse oggi, studiando la salvezza di Cornelio, potrai esaminare il tuo cuore, e prego che il Signore ti aiuterà a capire il tuo bisogno di un salvatore personale, che puoi trovare in Cristo e solamente in Cristo, ok? Però per prima cosa vorrei vedere le caratteristiche di questo uomo Cornelio. E la prima caratteristica la vediamo in versetto 2, e la Bibbia dice: esso, essendo uomo pio. Ora, cosa vuol dire pio? Uomo pio. Dal dizionario, pio vuol dire che prova, mostra o rispecchia un profondo sentimento di fede e di devozione religiosa. Ok, quindi possiamo dire che Cornelio era un uomo devoto. Ok, e le persone che sono serie nella loro religione sono persone devote. Ok, però lasciatemi dire una cosa: Cornelio era devoto, ma non era salvato. Ok, solo perché una persona è devota nella sua religione non vuol dire che è una persona salvata. Ok, perché vedete, la salvezza è qualcosa che Cristo ha fatto per noi. Ok, la salvezza non è qualcosa che noi facciamo per Lui. Ok, è una cosa molto importante da capire questo. La salvezza non è qualcosa di devoto da parte nostra, qualcosa che facciamo noi per renderci accettevoli a Dio, ma No, non è questo, ma la salvezza è che è qualcosa che Gesù Cristo ha fatto per noi, che ci rende accettabili a Dio. Okay? Prendiamo un cattolico, per esempio. Un cattolico può andare in chiesa ogni domenica, e può andare a ogni festività, Pasqua e quant'altro, può prendere tutti i sacramenti, okay? E può essere pure fedele a recitare tutto il rosario. Però questo non prova che è una persona salvata, ok? Prova solo che è una persona devota, è una persona pia, ok? Vediamo in Filippesi capitolo 3. Filippesi capitolo 3, anche l'Apostolo Paolo, prima di essere salvato, era una persona devota, ok? Filippesi capitolo 3. Nel versetto 4 Paolo dice qui: benché eziandio nella carne, io avrei di che confidarmi. Se alcun altro si pensi di aver di che confidarsi nella carne, io molto di più. Io che sono stato circonciso l'ottavo giorno, che sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo degli ebrei, quanto alla legge fariseo, e quanto allo zelo, essendo stato persecutore della Chiesa, e quanto alla giustizia che è nella legge, essendo stato irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagni, quelle ho reputato danno per Cristo. Anzi, pure ancora reputo tutte queste cose essere danno per l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per lo quale io ho fatta perdita di tutte queste cose e le reputo tanti sterchi a ciò che io guadagni Cristo. E io sia trovato in Lui, non già avendo la mia giustizia, che è nella legge, ma quella che è per la fede di Cristo, la giustizia che è da Dio mediante la fede. Ok, quindi cosa ha detto Paolo qui? Paolo disse che lui non stava più contando nelle sue cose che faceva nella legge, ok? Non contava più su quelle cose per la salvezza, ok? Le sue opere che faceva nella legge lui le reputa come danno, come perdita. Però dopo la salvezza Paolo ha detto: io conto sulla giustizia di Dio, ok? Per andare in cielo per fede. Io non conto più sulla mia giustizia e sulle cose che facevo io. Guardate di nuovo in versetto 9: e sia trovato in Lui, non già avendo la mia giustizia, che è della legge, ma quella che è per la fede di Cristo, la giustizia che è da Dio mediante la fede. Ok? Paolo era devoto nella legge, ma ha capito che quello non conta più, ok? Quando si tratta di salvezza. E Cornelio era molto devoto, ma non era salvato, quindi la devozione non ti salva. Torniamo a Fatti capitolo 10, vediamo un'altra cosa qui, la seconda caratteristica di Cornelio. Fatti capitolo 10 e in versetto 2 la Bibbia dice: esso, essendo uomo pio e temente Dio con tutta la sua casa. Ok, Cornelio, la Bibbia dice qui che temeva Dio. Ok, non solo lui, ma anche tutta la sua casa, tutta la sua famiglia. Cornelio aveva insegnato a tutta la sua famiglia a temere Dio. E temere il Signore è una buona cosa, ok, perché prepara la persona alla salvezza. Perché quando una persona teme Dio, ha il timore verso il Signore, allora quella persona cosa fa? Quella persona prende seriamente in considerazione il giudizio di Dio, ok? Prenderanno in considerazione le parole di Dio, ok? E la Bibbia dice qui che Cornelio temeva Dio, ed è una buona cosa, però vi dico una cosa, non era salvato, ok? Solo perché temi il Signore non vuol dire che sei salvato, ok? Vuol dire solo che temi il Signore, ok? E non mi fraintendete, il timore del Signore porta a tante buone cose. La Bibbia dice che il timore del Signore è il principio della sapienza, e il temere del Signore porta a tanti benefici, ma non è la via alla salvezza, ok? Cornelio era pio, non era salvato, e Cornelio temeva Dio, ma non era salvato. Vediamo la terza cosa. Sempre in Fatti capitolo 10 versetto 2 la Bibbia dice: esso, essendo uomo pio e temendo Dio con tutta la sua casa e facendo molte elemosine al popolo. Ok, Cornelio faceva molte elemosine al popolo, però indovinate, non era salvato. Dare l'elemosina alle persone vuol dire essere caritevole, vuol dire essere generoso. Ok, alcune persone sono estremamente generose con le loro ricchezze e il loro desiderio è che le persone beneficiano da quello che hanno guadagnato. Però dobbiamo capire che essere generoso non è una prova che sei salvato. Ok, prova solo che sei generoso. Ok, prova solo che sei benevolente. Ed è una buonissima cosa, però la benevolenza non è salvezza. Ok? E so benissimo che il secondo comandamento dice che di amare il tuo prossimo, ed è verissimo, però devi capire una cosa importantissima, che non sei salvato dando qualcosa, ma sei salvato ricevendo qualcuno. Ok? Vediamo Giovanni capitolo 1. Giovanni capitolo 1. Il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, e qui vediamo che il contesto è il Signore Gesù Cristo, e leggiamo in versetto 9, e la Bibbia dice in Giovanni 1:9, colui che è la luce vera, la quale illumina ogni uomo che viene nel mondo, era nel mondo e il mondo è stato fatto per esso. Ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, i quali credono nel suo nome, egli ha dato questa ragione d'essere fatti figlioli di Dio. Ok, quindi notiamo in questo versetto che solo quelli che credono nel suo nome vengono fatti figlioli di Dio. Ok, e quindi di nuovo non sei salvato dando qualcosa, ma sei salvato ricevendo qualcuno. Ok, e solo quelli che lo hanno ricevuto vengono fatti figlioli di Dio. E però senti le persone dire, ma tanto siamo tutti figlioli di Dio, no? Questo versetto nega questa affermazione, non siamo tutti figlioli di Dio. Solo quelli che lo hanno ricevuto, solo quelli che credono alla sua morte per i tuoi peccati, per i loro peccati, alla sua sepoltura e alla sua risurrezione, quelli vengono fatti figlioli di Dio. Un altro versetto, Giovanni capitolo 3, Giovanni capitolo 3, un versetto molto conosciuto, Giovanni 3 e versetto 16, la Bibbia dice, perciò che Dio ha tanto amato il mondo che egli, notate questo, ha dato il suo unigenito figliuolo, a ciò che chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Vorresti la vita eterna? Allora devi credere in Gesù, l'unigenito figliuolo che Dio ha mandato, che ha dato per fede. E Cornelio era generoso, ma la generosità non porta alla salvezza. Fatti capitolo 10 di nuovo. Fatti capitolo 10, quindi Cornelio dava le elemosine ma non era salvato, Cornelio temeva il Dio ma non era salvato e Cornelio era devoto ma non era salvato. Vediamo qualcos'altro in Fatti capitolo 10, in versetto 2, di nuovo esso essendo uomo pio e temente il Dio con tutta la sua casa e facendo molte elemosine al popolo e pregando il Dio del continuo. E sì, Cornelio pregava il Dio del continuo, però non era salvato. Ok? E sapete una cosa? È una cosa straordinaria vedere quanto sono fedeli alcune persone quando pregano. Ok? I musulmani pregano 5 volte al giorno, gli ebrei ortodossi pregano 3 volte al giorno. E la nostra Bibbia dice non restare mai di orare, cioè di pregare. Però i cristiani sono diventati freddi e pregano sempre di meno, non c'è contatto fra loro e Dio, non c'è comunicazione. Però Cornelio pregava del continuo, però vi dico una cosa, la preghiera non ti salva, ok? E quando andiamo fuori a distribuire i volantini, oppure quando visitiamo i nostri familiari e cerchiamo di dargli il Vangelo, cerchiamo di evangelizzarli, dobbiamo stare attenti a quando diamo il Vangelo, ok? Dobbiamo assicurarci di dirgli che recitando una preghiera questo non ti salva, ok? Non salva la loro anima dall'inferno, ok? 1, 2, 3, ripeti dopo di me, non salva, ok? Quindi non è una formula magica che ti porta in cielo, no, devi essere sicuro che hanno capito di uno di essere peccatori, perché è la loro natura. Infatti la Bibbia dice che tutti abbiano peccato e siano privi della gloria di Dio, ok? E devono capire che c'è una penalità per il loro peccato, e che c'è un posto chiamato inferno, ok? E che ci sarà un giudizio, però fargli anche capire che c'è Gesù che ha pagato quella pena per noi, ok? E fargli capire che Gesù è quel sostituto e che possono ricevere ed essere salvati. E poi fargli confessare in preghiera con le loro parole. Però purtroppo ci sono persone che mettono la loro fede nella preghiera, ok? Però la salvezza è credere nel tuo cuore. Vediamo questo in Romani capitolo 10. Romani capitolo 10. Questo versetto ce lo spiega meglio. Romani capitolo 10 e versetto 9. La Bibbia dice che se tu confessi con la tua bocca il Signor Gesù e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Conscio sia che col cuore si creda a giustizia e con la bocca si faccia confessione a salute. Quindi avete visto? Credi nel tuo cuore, ok? Recitare una preghiera non ti salva, ok? Una persona che crede nel cuore, e questo cosa fa? Questo lo spinge a confessare con la sua bocca il Signore Gesù, credendo veramente nel suo cuore che Gesù ha pagato il prezzo per i suoi peccati. Questo cosa farà? Questo spingerà la persona da solo a confessare con le sue parole il Signore Gesù. Ok? Non è la sua confessione che salva, ma è il suo credere che lo salva. Ok? Fatti capitolo 16. Vediamo qua il carceriere filippese che parlò con Paolo e Sila. Però notiamo questo. Fatti capitolo 16, versetto 31. E la Bibbia dice: ed essi dissero, credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Ok, la parola chiave qui è credere. Ok, quindi se una persona semplicemente recita una preghiera senza credere nel suo cuore, allora non è salvato. Cosa sta facendo quella persona? Sta mettendo la sua fede in quello che gli ha detto, non so, un prete, oppure sua madre o una persona, ok? Mette la sua fede in quello che gli ha detto quella persona, ma non deve essere così. La persona deve credere a ciò che ha detto Gesù Cristo. Gesù disse in Giovanni 11:26: e chiunque vive e crede in me non morrà giammai in eterno. E Gesù crede, credi tu questo. Quindi la parola chiave è credere. E Cornelio pregava del continuo, però la preghiera non salva. E di nuovo, non mi fraintendete, la Bibbia dice non restare mai di orare, non restare mai di pregare, è una cosa buonissima, ma questo non ti può salvare. Ok, Fatti capitolo 10 di nuovo. Vediamo un'altra cosa. Fatti capitolo 10, versetto 22, la Bibbia dice: ed essi dissero, Cornelio, centurione, uomo giusto e temente Dio, e del quale rende buona testimonianza tutta la nazione dei giudei. È stato divinamente avvisato da un angelo di farti chiamare in casa sua ed udire ragionamenti da te. Ok, quindi la Bibbia descrive questo uomo come era una persona devota, temeva Dio, dava le elemosine, pregava a Dio, e qui in versetto 22 dice che era un uomo giusto. Ok, e vorrei fermarmi su questa parola, giusto. Ok, era un uomo che aveva giustizia. Ora vorrei fermarmi un attimo su questa parola. Ora nella Bibbia ci sono divisioni da fare, ok? E quando vengono fatte queste divisioni, quando cerchiamo di leggere la nostra Bibbia, allora sì, capiremo la nostra Bibbia. Una di queste divisioni è che ci sono tre gruppi, ok, che troviamo nella Bibbia. Abbiamo i giudei, abbiamo i gentili e abbiamo la Chiesa di Dio. Cornelio fa parte del gruppo dei gentili, ok? E cosa vuol dire gentile? Qualunque persona che non è nata nella famiglia fisica di Abramo, Isacco e Giacobbe, allora è gentile, ok? E Cornelio era gentile. I giudei seguivano la legge, loro avevano la legge, però i gentili non avevano la legge. Però cosa facevano i gentili? I gentili loro facevano naturalmente le cose che erano nella legge. Ok, i gentili seguivano la loro coscienza. Ok, e Cornelio faceva le cose naturalmente le cose della legge, e per questo era uomo giusto. Ok? Forse è un po' complicato a capire, però lascio alle scritture la spiegazione. Vediamo in Filippesi capitolo 3. Filippesi capitolo 3. Come disse un pastore americano, non c'è niente di meglio di una Bibbia per chiarire le cose. Filippesi capitolo 3. E abbiamo già letto questo versetto. Filippesi 3, versetto 5, la Bibbia dice... Questo di nuovo è Paolo. Io che sono stato circonciso l'ottavo giorno, che sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo e quanto allo zelo, essendo stato persecutore della Chiesa, e notate questo, quanto alla giustizia che è nella legge, essendo stato irreprensibile. Ok, Paolo era irreprensibile nella legge perché era ebreo. Ora, cosa vuol dire irreprensibile? Nel senso che era corretto nella legge. Ok, e Cornelio lui sarebbe stato giusto perché seguiva la sua coscienza e faceva le cose naturalmente che erano nella legge, anche se non aveva la legge. E per questo la Bibbia che dice che era un uomo giusto. Però questa era la sua giustizia, ok? La giustizia che ha lavorato lui, ok? A Cornelio serviva un'altra giustizia. Vediamo in Primi Corinti capitolo 6, Primi Corinti capitolo 6, qua Paolo ci dà una lista di peccati, però quello che ci interessa si trova in versetto 11, però leggiamo in versetto 9. La Bibbia dice: non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né i molli, né quelli che usano i comaschi, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiosi, né i rapaci non erederanno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor Gesù e per lo Spirito dell'Iddio nostro. Ok, quindi versetto 11 ci dice che siamo giustificati nel nome del Signor Gesù, ok, e per lo Spirito dell'Iddio nostro. Questa giustizia è un lavoro dello Spirito di Dio, ok, non tuo. Ok, Cornelio era giusto, ma era lavoro suo. Ok, la giustizia che aveva bisogno Cornelio è quello che proviene da Gesù Cristo. Ok? E questa sera anche tu puoi ricevere la giustizia di Gesù Cristo. Per essere salvato basta ricevere Gesù Cristo. Ok? E ti sarà imputata la sua giustizia. Romani capitolo 3. Vediamo questo. Romani capitolo 3. Romani 3, versetto 21. La Bibbia dice: ma ora, senza la legge, la giustizia di Dio è manifestata, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. La giustizia, dico, di Dio, per la fede in Gesù Cristo, in verso tutti e sopra tutti i credenti, perciò che non v'è distinzione. Versetto 23, concessi a che tutti abbiano peccato e siano privi della gloria di Dio, essendo gratuitamente giustificati per la grazia d'esso e per la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale il Dio ha innanzi ordinato per purgamento col suo sangue, mediante la fede, per mostrare la sua giustizia per la remissione dei peccati che sono stati innanzi nel tempo della pazienza di Dio. Quindi Cristo ha già pagato la pena per i tuoi peccati con il suo sangue. Okay, tutto quello che devi fare è ricevere per fede quel pagamento che ha fatto per te, okay, e facendo così la sua giustizia ti verrà imputata a te. Okay, Isaia capitolo 64, okay, Cornelio era giusto ma non aveva la giusta giustizia. Ok, scusate il gioco di parole, ma è così. Ok, abbiamo letto in Romani 3:23 che tutti abbiano peccato e siamo privi della gloria di Dio. Ok, e se vogliamo entrare in cielo, noi dovremmo avere la giustizia di Cristo. Ok? E questa è la nostra giustizia. E per entrare in cielo dovremmo avere la giustizia di Cristo. Ok? Isaia capitolo 64, versetto 6. Ora leggiamo della nostra giustizia. La Bibbia dice: e noi siamo stati tutti quanti come una cosa immonda, e tutte le nostre giustizie sono state come un panno lordato. Praticamente la Bibbia dice che la nostra giustizia è uno straccio. Ok? E questa giustizia non va bene, non può entrare. Ok? Quello che ti serve è la giustizia di Cristo per entrare in cielo e poi riceverla per fede. Vediamo di nuovo infatti capitolo 10, vorrei mostrarvi un'altra cosa. Fatti capitolo 10, versetto 22. Di nuovo la Bibbia dice: ed essi dissero: Cornelio, centurione, uomo giusto e temente Dio, e del quale rende buona testimonianza a tutta la nazione dei giudei. Ok, Cornelio aveva una buona testimonianza. Cornelio era visto come un buon uomo, ok, era un bravo cittadino, era una brava persona. Ok, però essere bravo cittadino, una brava persona non ti porta in cielo. Ok, vediamo questo in Efesi capitolo 2. Efesi capitolo 2. Efesi capitolo 2 e versetto 8, la Bibbia dice: perciò che voi siete salvati per la grazia mediante la fede, e ciò non è da voi, è il dono di Dio. Versetto 9, non per opere, a ciò che ognuno si glorì. Ok, quindi non per opere. Non è quello che fai tu che ti porta in cielo, ma quello che Gesù Cristo ha già fatto per te sulla croce. E Cornelio non era salvato finché lui ha messo la sua fede in Gesù Cristo per portarlo al cielo. Torniamo di nuovo, Fatti capitolo 10. Allora cosa succede? Dio ha mandato Pietro per predicare la parola a Cornelio e alla sua casa. Fatti capitolo 10. E versetto 43, la Bibbia dice: a lui rendono testimonianza tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve remissione dei peccati per lo nome suo. E mentre Pietro teneva ancora questi ragionamenti, lo Spirito Santo cadde sopra tutti coloro che udivano la parola. ok? Tutte queste persone che hanno sentito la parola e creduto nel loro cuore a Gesù Cristo, cadde lo Spirito Santo, ok? In questo modo si sono salvati, ok? Però notate che non si sono fermati a dire qualche preghiera, ok? Il momento che hanno creduto al nome del Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo cadde su di loro. Giriamo a Galati capitolo 2. Galati capitolo 2. Quindi non è per quello che fai tu che ti salva, ma quello che ha già fatto Cristo per te. E questo versetto lo spiega perfettamente. Galati capitolo 2, versetto 16. La Bibbia dice: sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per la fede di Gesù Cristo. Abbiamo ancora noi creduto in Cristo Gesù, a ciò che fossimo giustificati per la fede di Cristo e non per le opere della legge, perciò che ognuna carne sarà giustificata per le opere della legge. Quindi non possiamo fare nulla noi per salvarci, essere devoti, avere il timore verso Dio, dare le elemosine, pregare, essere giusti, essere buoni. Tutte queste cose, per quanto siano buone, non ti possono salvare. Okay? L'unica opera che ti può salvare è quello che ha fatto Gesù Cristo per te sulla croce. Vediamo in Apocalisse capitolo 21. E abbiamo letto prima in Romani 3 che tutti hanno peccato. Tutti sono peccatori. Ed è questa la condizione di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino sulla terra. E noi tutti abbiamo commesso dei peccati nella nostra vita, ok? Che sia una piccola bugia, che sia una grande bugia, che sia peccato minore, peccato maggiore, per Dio peccato è peccato, ok? Abbiamo tutti rubato qualcosa nella nostra vita, che sia una caramella al supermercato, dei soldi ai vostri genitori, non lo so, non lo voglio sapere, ma l'unica cosa che vi voglio far sapere è che tutti i peccatori andranno in questo posto. Apocalisse capitolo 21, nel versetto 8, la Bibbia dice: ma quanto a timidi e a degli increduli e a peccatori e gli abominevoli e ai micidiali e a fornicatori e a magliosi e agli idolatri e tutti i mendaci, la parte loro sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Ok, quindi noi tutti meritiamo questa punizione, ok? E dite, perché la meritiamo? Per la nostra natura, cioè siamo tutti peccatori. E Dio è un Dio così santo che non può far entrare neanche 1% di peccato in cielo, ok? Però c'è una via d'uscita a questa punizione, ok? C'è un ma a tutto questo. E io ringrazio Dio per quel ma, ok? La Bibbia dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Un altro ma si trova in Romani capitolo 5 versetto 8, dove dice: ma il Dio commenda l'amor suo in verso noi, in ciò che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi. È morto per noi, ok? È già stato fatto, non dobbiamo fare nient'altro ma solo riceverlo, ok? Di nuovo in Efesi capitolo 2 versetto 8 e 9 la Bibbia dice: voi siete salvati per la grazia mediante la fede, e ciò non è da voi, ok? Ma è il dono di Dio, non per opere, a ciò che ognuno si glori, ok? Non per opere, non per quello che fai tu, non è il battesimo non può fare ciò, ok? Il pastore qua non può perdonare i peccati, ok? Il Papa non può perdonare, ok? Il Papa non può perdonare, non può salvare un cavallo morto, ok? Un peccatore non può perdonare i peccati di un altro, ok? Non puoi salvare te stesso. E la Bibbia dice che la vita eterna è un dono gratuito, ok? I doni, cosa si fanno con i doni? Ok? I doni non si meritano. Ok? Non si guadagna per un dono, tu non lavori per un dono, altrimenti non è più un dono. Se io vorrei dare questo volantino al pastore, ok? Il pastore non ha lavorato per questo volantino, ok? Non ha tagliato l'erba di casa mia, anche se no, l'erba a casa mia. Però cosa deve fare per riceverlo? Cosa deve fare? Deve solo semplicemente prenderlo e riceverlo. E la salvezza è così semplice. Ok, basta ricevere ciò che Gesù ha fatto per te sulla croce, che è morto per i tuoi peccati, è stato sepolto ed è risorto al terzo giorno, secondo le scritture. Perché pensateci un secondo, ok? Se davvero noi potessimo guadagnare la nostra salvezza, la nostra vita eterna, allora perché Dio ha mandato il suo unigenito figliolo qui in terra a morire per noi? Cristo dunque è morto invano. Non possiamo salvare noi stessi, ma solamente Gesù. Non c'è nessun'altra via. La Bibbia dice, Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Niuno viene al Padre, se non per me. Ok? Gesù disse che è Lui la via, ok? Voglio farvi notare l'articolo determinativo che usa. La via, ok? Non una via. Ok? La via è esclusiva, non c'è nessun'altra via. Di nuovo in un altro posto la Bibbia dice, v'è un sol Dio ed è anche un sol mediatore di Dio e degli uomini, Cristo Gesù uomo, nessun altro è esclusivo. E solo Dio può intercedere per te. E di nuovo la Bibbia dice che è Gesù il nostro mediatore, la Bibbia non dice mediatori e la Bibbia non dice mediatrice, ok? Quindi i santi non possono intercedere per noi. La Madonna non può intercedere per noi. Ok? Primo Giovanni capitolo 5, verso la fine della vostra Bibbia. E sapete una cosa? Mi piace questo libro. Ok? Perché questo libro ti fa sapere alcune cose. Ok? Ti fa sapere che l'autore di questo libro non mente. Ok, Dio è legato alla sua parola e non può mentirci. Io ho piena fiducia in quello che ha detto qui. Ho piena fiducia in quello che ha detto in questo versetto. Primo Giovanni capitolo 5 e versetto 13 la Bibbia dice: io ho scritte queste cose a voi che credete nel nome del figliol di Dio, a ciò che sappiate che avete la vita eterna e a ciò che crediate nel nome del figliol di Dio. Amen. E notate qua c'è scritto sappiate, cioè sappiamo. C'è scritto sappiate. Noi possiamo sapere al 100% che dopo questa vita noi possiamo andare in cielo. Bene. Ok? Alla condizione di credere al nome di Gesù Cristo, che è morto per i tuoi peccati personali, non solo quelli del mondo, ma personali. Quindi le tue bugie, le parole che hai detto, è morto per quei peccati. E Gesù cosa fa? Li lava via con il suo sangue. Ok, la Bibbia dice questo, che siamo giustificati nel suo sangue. La Bibbia dice chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ok? Puoi mettere il tuo nome al posto di quel chiunque. Puoi mettere Caleb avrà invocato il nome del Signore e sarà salvato. Sarà salvato, non forse sarà salvato, ma sarà salvato. Ok? E se sei senza Cristo nel tuo cuore questa sera e non sai quale sarà la tua destinazione dopo questa vita, allora io cosa faccio? Io ti invito a pregare per noi, però ricorda che la preghiera non ti può salvare, ok? Devi credere nel tuo cuore che solo Gesù ti può portare in cielo, ok? Preghiamo. Padre Celeste, ci inchiniamo dinanzi a te di nuovo questa sera e ti voglio ringraziare, Signore, per questo tempo che abbiamo avuto, per questi fratelli e sorelle in Cristo che sono qui questa sera, Signore, che hanno messo tempo da parte per venire qua, per sentire le tue parole predicate, Signore, e per avere la fratellanza, Signore, ti ringrazio per loro, ti ringrazio per queste persone che hanno udito il messaggio. E Signore, io ti prego, se c'è qualcuno che qui non ha ancora ricevuto il Signor Gesù Cristo, Signore, io ti imploro di fargli capire che non può entrare nel cielo per le loro opere, non può entrare in cielo per le loro buone azioni, e ti prego di fargli capire che non possono salvare se stessi dall'inferno, ma solo ciò che ha fatto il Signore Gesù Cristo sulla croce, solo quello può salvare la loro anima dall'inferno. e fargli capire, Signore, che questa sera può tornare a casa sapendo che quando morirà potrà svegliarsi in paradiso, quando crederà al nome del Signore Gesù Cristo. Vi invito a rimanere con le teste abbassate, con gli occhi chiusi, e vi invito di pensare a ciò che è stato detto questa sera, ok? Perché c'è una cosa sicura in questo mondo, ed è la morte, ok? La Bibbia dice che all'uomo è imposto di morire una volta, e dopo ciò è il giudizio, ok? Non è certo che noi tutti torneremo a casa sani e salvi questa sera. Ok, qualcosa può accadere, non so, un infarto, un incidente, non lo so, forse non è oggi, forse non fra un anno, fra 5 anni, non lo so, però una cosa che so è che la morte è sicura. E la mia domanda è: dove andrà la tua anima dopo questa vita? Andrà in cielo oppure all'inferno? Perché la Bibbia dice che l'inferno non è un posto per voi. Dio ha creato l'inferno per i diavoli e per i suoi angeli. E questa sera potete andare via da questo posto, potete uscire da quella porta sapendo di avere la vita eterna. Basta dire al Signore, a parole tue, che ti rendi conto che sei un peccatore e potete ringraziarlo per quel sacrificio sulla croce, per i tuoi peccati personali, e che mettete tutta la vostra fede in Lui e solo in Lui. Non in qualche religione, non nelle vostre ricchezze, ma solo in Cristo, ma solo Cristo, colui che è il nostro trasporto in cielo. Sapete, il Signore non vuole una religione, ok? Ma il Signore vuole una relazione con te. Ora non c'è nessuno che sta guardando intorno, tutti con gli occhi chiusi. Io ti chiedo se hai accettato in questo momento il Signore Gesù Cristo a salvare la tua anima dall'inferno. Allora ti chiedo di alzare la mano. Non c'è nessuno che sta guardando intorno, non c'è bisogno di vergognarsi, ma voglio pregare per te. Però se l'hai fatto, allora cosa è successo? Il tuo nome è stato scritto nel libro della vita. E cosa succederà è che non verrà mai più cancellato. Non puoi perdere la tua salvezza. Però, se non hai accettato il Signore Gesù Cristo questa sera, sappi che di tutto può succedere là fuori, che non è sicuro che tornerai a casa stasera. E se non hai ricevuto il Signore Gesù Cristo, io ti imploro di fermare qualcuno, uno di noi, e mostrarti come essere salvato. Padre Celeste, io ti ringrazio di nuovo per questo tempo che abbiamo avuto insieme questa sera per studiare, Signore, questo uomo Cornelio. Ti ringrazio, Signore, per questo esempio, che ci mostra, Signore, che le nostre opere non ci possono salvare, una religione non può salvare, ma solamente ciò che ha fatto il Signore Gesù Cristo per noi sulla croce. E ti ringrazio per Lui, e ti ringrazio, Signore, per tutte le benedizioni su di noi. E preghiamo, Signore, che ci porterai a casa sani e salvi questa sera. E prego che il Signore Gesù Cristo continuerà a ricevere tutto l'onore e tutta la gloria da questo servizio. E prego tutto questo nel Suo nome e per il Suo presto ritorno. Amen. Amen. Buona serata a tutti.